Questo era il ricordo di alcune delle foto, di alcuni dei momenti di Renzo Prevedelli. Questa serata è dedicata a lui, oltre che anche tutta la giornata, perché lui, come avete visto, presente in tutte le situazioni, comunque molto, molto vicino sempre ai lavoratori, sempre a muso duro. E partiamo con una canzone che parte dalle miniere, da chi andava ad emigrare nelle miniere. Il percorso di stasera sarà un po' vario, perché partiremo con le canzoni di lavoro, sui morti, sul lavoro, di inquinamento, anche per poi finire a parlare proprio di lui, con canzoni, comunque una canzone dedicata a lui e con gli interventi di molti di noi, che poi man mano diremo. Son partito da casa da bimbo per guadagnare un tozzo di pan. O tra forai le più lunghe gallerie, sotto l'acqua del fumo e del vapor. 40 mine si sono scoppiate, 40 mine si stanno per scoppiar. Addio compagni, compagni, aiutatemi, preser in quattro mi portan l'ospital. Ed una gamba ed un braccio tagliato, e dalla testa mi sento a morir. Le già 20 anni che faccio il minatore, a quest'ora son belle rovinà. Le già 20 anni che faccio il minatore, a quest'ora son belle rovinà. Questa canzone invece è di Woody Guthrie e riguarda un disastro avvenuto nelle miniere molti anni fa. Lui fu arrestato anche per questo, perché messo davanti alla miniera a cantare questa canzone, vennero le guardie e lo arrestarono perché era una minaccia per il padrone, aspettando al cancello. Tell the miners, kid on news, there's the blasting number 5, and famiglia is standing at the gate. The inspector years ago saying number 5 and deadly hole, and the man most likely won't come out alive. Waiting at the gate. When we're waiting at the gate. Smoke and fire, just a roll ball from the dark and deadly hole. When the miner's hidden waves at the gate. Aspettando il cancello, fumo e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale. Mentre le mogli e i figli aspettano al cancello, l'ispettore disse anni fa che il numero 5 era una buca mortale e gli uomini probabilmente non ne sarebbero usciti vivi. E le famiglie aspettano al cancello. The inspector told the boss, it was more than a year ago. You are risking this man's life in number 5. The hall's full of human dust, full of vague explosive gas. But the boss, they just have to take the chains. Waiting at the gate. When we are waiting at the gate. A smoke and fire and just a roll from the dark and deadly hole. Wait the miners hid away inside the gate. L'ispettore disse al padrone più di un anno fa: sta rischiando la vita degli uomini al numero 5, è pieno di vapore e polvere, pieno di gas esplosivo. Tutti dissero che un giorno di lutto sarebbe arrivato, ma il padrone disse: corriamo il rischio, dobbiamo lavorare per quadrare i conti, lavorare, devono tornare i conti. E le mogli e i figli aspettano al cancello. Well, I try to get a look of the face and of the no, as the man has carried our up in sheath. I can hear the church in bell ringing for 111 dead. I can hear the family sweeping in the street. Oh, waiting at the gate. We are waiting at the gate. Spotted belly, folk and fire, and the dark and deadly hole where the miners hid away at the gate. The explosion struck in Wednesday, and the stabbed gate till Saturday. Then the lay my daddy out with the other man. In the pocket of his short, I found lot and little, naughty road, never go down in a dangerous man again. Oh, waiting at the gate, we are waiting at the gate. Smoke and fire, just a robot from the dark and deadly hole, when the miners hid and waves at the gate. Cercavo di vedere i volti che avevo visto tante volte, mentre gli uomini venivano portati fuori, a volte in coperte. Sentivo suonare le campane della chiesa per 112 morti. Vedevo le famiglie piangere per le strade. Aspettiamo il cancello, aspettiamo il cancello. L'esplosione fu di mercoledì e rimasi al cancello fino al sabato, finché tirarono fuori mio padre insieme agli altri. Nella tasca della giacca trovai un biglietto scritto da lui: mai più scenderò in un buco pericoloso come quello. Non dobbiamo scendere mai più. Fumo e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale, mentre i figli e le mogli aspettano i loro minatori al cancello numero 5. Waiting at the gate. We are waiting at the gate. Smoke and fire, just a robot from the dark and deadly hole, when the miners hid away at the gate. When the miners hid away at the gate. When the miners hid away at the gate. Stanley, mi alzi un po' il microfono per piacere. Questa canzone invece è una canzone che si collega al tema della Covid, quindi al tema di cosa è successo in quegli ospedali e di quanto siano poco stati tutelati anche infermieri e dottori. E prima però ha lo stesso tema di una canzone che si chiama L'osteria del Tire Shop, che sarebbe l'osteria del cacciatore, dove i compagni aspettano un loro amico che deve tornare dal lavoro, ma lo aspettano invano perché è morto in officina. All'osteria del Tire Shop, gli tre operai enfiati dei e parla dur compagni che morde a Laura otto il padrù e al Mario che è un denun e il disco è il veglio porrio Pier. El disco che el vein vestito de neuf, aspetta, aspetta, a montanti di. Dice che el vein all'officina, che è morto un uomo. Morto un uomo, un nostro compagno, morto un uomo, un nostro compagno. E morto un uomo, un nostro compagno, mo perciò pa, te ti de più, era triste, tropicini, era sopando. Era poco, no te rom, un nostro compagno, prete padru, dirà la so, il disco so, l'officina, che fortuna, un nostro compagno, qua quater persone fio de mangià ta uterano ter compagn i triuperari e un fias de vin senza laura le brut campà all'usteria del tiras chop che triuperari e un fias de vin i parlador compagn che mort a laura o tal padrun a laura o tal padrun a laura so tal padrun vai all'ospedal de la Valseriana che tridutor se le tumana che tridutor strac e senza fia san più se fa iena strema giocherà al Mario al professor alle in pension male chiuncor al dischel vegna e le venu se che bisogna al gencalù alle una storia d'un mal terribile per la folcia pari veci alle impossibile alle una storia d'un gran dolor muri in sci infarme e dutur alle una storia di chi lavore iam fai muri par laura de più avanti avanti o sperda il post sa fermo no tu ma per questa ale una storia senza né cor né testa tantina morti na morte basta ale una storia da chi comanda son tutti eroi, adesso scanta. Aspetta, aspetta, che l'infarme bianca e smorta come un lenzo al disco là. Giù in officina è morto un uomo in quella stanza al disco là che più speranza che è morto al Mario in quella stanza all'ospedal della Valseriana che tridutur sulle tue mani insieme ai morti tu ci suffiga a genca al Mario là le montuna passano i camion con i soldati a genisse accompagna a che ni se nianca prega a che ni se accompagna. Parlando invece di inquinamento, noi anni fa, io parlo col Paolo Zagari, un applauso al Paolone, Paolone si unisce a noi. Il Paolo si unisce a noi in tanti brani. Questa canzone l'avevamo scritta insieme anni fa, tra l'altro ha avuto anche un premio. Allora era l'inizio dei discorsi legati all'inquinamento. Ma vicino dove abitavo io, in particolare nel paese dove siamo andati a fare questo concorso, a Trecate era praticamente scoppiato un pozzo petrolifero. E allora, come era successo per i cormorani nella guerra in Iraq ed era tutto nero, ecco, noi avevamo lì i Martin pescatori che erano tutti coperti di catrame e per molti mesi nelle nostre fossati arrivava giù acqua nera e sporca. Allora noi abbiamo scritto una canzone quasi di omaggio ad abitare nei paesi, ma con anche un po' di ironia, perché in effetti non è che i paesi sono rimasti quelli di tanti anni fa. Al mio paesin. Mamma mi son tornaca, mamma mi vo più là a lavorà, dam la sapa chi vo a banca, la metterà fuori alla città, lì che la gente se para di corsa che da fa impresa, i tome ste tira fuori a tutta la tua forza per fa su, tanti danella e la che bel sta in un paese piccinin, in mestiris bella terra, d'acqua pina, ad fosfati e a trazzina, si bella la campagna andua vecchi, e da trisogna che non un cinema, una palestra tanti curiosa, alla finestra la la la la. In tal fosse, in tal bel mese, in tla roncia che le da fogna a gira ancora un coi bel pesse, te furtuna se gano la rogna, si altro brutta, agne montone, ma mi sto chi, e vono via su e giù, pari cantona come le bella, stacca mia la. In tal fosse, in tal bel mese, in tla roncia, che le na fogna a gira ancora, un coi bel pesse te furtunassi, gano la rogna si addro brutta, agne montona ma mi sto chi, e vono via su e giù, pari cantona come le bella, stacca mia. Al me paesin ciribiribin, le piccole ciribiribin, che poca gente ciribiribin, me jaghe niente ciribiribin, aghe il petroli, le tuma oli ciribiribin, idrocarburi, sono sicuri ciribiribin, se il bus le sciupa, basta stanca, ale il progresso, va bene stress ciribiribin, al me paesin. Il progresso va bene stesso al me paesin, al me paesin, al me paesin ci ripirebbe. Grazie, beh, con questa canzone avete finito di non cantare adesso, perché adesso dovete assolutamente cantare. Questa qui è una di quelle canzoni che una delle ultime battaglie fatte anche dal nostro sindacato, ma e Renzo in particolare anche, contro il Jobs Act di renziana memoria, ci ha portato a scrivere questa canzone, che in realtà parte da un gospel, quindi è necessario che la strofa di ritornello la cantiate insieme a noi. La canzone è A Job Zacht, non sta sereno che con le mani in tasca noi non saremo. Allora facciamo una piccola prova, Sì. Adesso la canto da solo, dammi solo una nota, la canto libera così vengono dietro. A Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo insieme. A Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. E schiavitù no grazie, caro Matteone, non son più gli anni dei campi di cotone. Questa riforma ci dice un toccasana, solo per i padroni che risparmiano la grana. A Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. A Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. Se sei un rompiballe fai valere un tuo diritto, da domani stai a casa così impari villani a star zitto. Chi decide solo l'azienda, poche discussioni, poi ti indennizza adesso fuori dai coglioni. A Job Zacht non sta sereno, mani in tasca noi non staremo. Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. Sotto i begli annunci, sotto l'apparenza, restiamo senza diritti, questa è la sostanza. La vera rottamazione che hanno fatto loro sono le nostre vite insieme al lavoro. E a Job Zacht non sta sereno e con le mani in tasca noi non staremo. A Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. Vai Paolo! Statuto dei lavoratori, articolo 18, sono cose obsolete, superate di botto. Han diviso così bene tutti i lavoratori, i vecchi a casa, i giovani lavorano tutte le ore. A Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. A Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. Matteuccio, sei moserdo e usi tweet, vuoi cancellare i diritti con un click. Prima ci dai le tutele crescenti e dopo ci precipiti con licenziamenti. Oh, a Job Zacht non sta sereno che con le mani in tasca noi non staremo. A Job Zacht non sta sereno e con le mani in tasca noi non staremo. Far di tutto su e giù, sai che bel divertimento, anche la paga su e giù, questo è il demansionamento. Mansioni inferiori, salario più basso, ah che bella questa riforma del cazzo. E a Joe Sachs non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. A Joe Sachs non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. A Joe Sachs non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. A Joe Sachs non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. Sì! A Renzi! Allora ragazzi, quando ho detto così, adesso io, chi è che è stato trasferito nella società di Accenture qua, sulle mani? Allora fuori qua, vi voglio qua assolutamente, perché questa è una canzone che abbiamo cantato a cappella, a cappella! Anche a cappella! Allora, Marcello Turcato al sax, nonché in versione sciopero giapponese. Vai. Allora, venite qua. Allora, noi abbiamo fatto tra le varie... Allora, se tu... Io sono stonato. C'è la scuola quella di via, vai di là. Cioè, siamo più noi di quelli di Adele. Allora, anche l'Agata. Allora, qua. Agata, ti voglio qua perché te sei fondamentale. Allora, ricordiamo che dopo aver fatto una grandissima manifestazione davanti a Piazza Bobardi. Sì, ma allora se state un po' zitti, no, perché sennò fate voi, allora perché no? Siamo qua. Cioè davanti a un pubblico tutto sommato di quattro sciamannate appesantite, poi neanche e diureticamente poco. Ah, non abbiamo cantato la canzone sulle babbione, quindi oh. vi abbiamo graziato stasera. Allora, momento. Forse qualcuno di voi non ha partecipato a tutte le... Mi domando, qualcuno di voi forse non ha partecipato a tutte le lotte, per cui per quello che magari questa canzone non la sa. Ma noi siamo stati davanti, dopo essere state quella grande manifestazione, davanti però invece al Palazzo di Via De Ruta, abbiamo fatto una versione di un cantante a noi che noi piace molto, no? Che è Enzino Iannacci. Vieni qua. E allora abbiamo cantato una versione di invece di Vengo anch'io, no tu no, sei ceduto, no, tu no. Allora, attenzione, voi dovete innanzitutto battere le mani anche a tempo, volendo, no? Allora, vediamo se poi capite anche il mio testo, perché sì, l'ho un po' modificato, perché c'è anche una strofa finale nuova, inedita. Ti ho già accennato lì. Allora, vediamo. Voi seguite un po' me, vediamo se va. Vediamo se va, me lo tieni. Fammi vedere, perché qua è un veglione questo qui, non so se qualcuno l'ha capito, ma... Si potrebbe ancora fare un piano industriale. Sei ceduto! No, allora siamo già di... È come la sinistra, siamo in tre, abbiamo quattro versioni diverse. Sì, tu no, no perché vada via. Allora, il testo è questo qua. Non è che ognuno si inventa un cazzo di testo per cazzo. Siamo già. Ma non è quello lì, siamo qua. Se c'è un testo che. C'è uno, poi questo c'è tre, poi c'è due. Ok, va bene, è questo qua. Ragazzi, stiamo uniti. Siamo uniti, la battaglia non è ancora vinta, ci sono le cause là in tribunale, siamo ancora uniti, Voi dovete solo dire sei ceduto, no, quindi non c'è da fare poi una roba proprio da cinema, eh. Allora, anche te, hai finito anche te oggi, cosa sei? Ma ora veramente oggi siete nervosi, eh. Allora, si potrebbe ancora fare un piano industriale, sei ceduto! No. Tanti sacrifici sempre sol per i colleghi da fare, ma stavolta un calcio in culo e 900 vi andare e vedere di nascosto l'effetto che fa. Sei ceduto. No. Sei ceduto. No. Sei ceduto. No. Ma perché? Perché no. Non ci sto. No, non si ricomincia. Ragazzi, allora, state facendo diventare un momento drammatico in una cagata. Allora ragazzi, allora ha ragione l'azienda. No, ha ragione l'azienda, ha fatto bene l'azienda a mandarvi via. Non siete neanche allineati, non so che produzione potete fare. Porco cane ragazzi, allora piuttosto che dire cazzate, non cantate. Cioè state sotto, fate a movete, ma... Si potrebbe tutti quanti andare in Accenture, vengo anch'io. Sì, sì. Lavorare fianco a fianco nei palazzi di Assago, salutarsi al mattino, e ciao ex collega, tanto io sto in BNL e chi se ne frega. Sei ceduto, no tu no. Sei ceduto, no tu no. Sei ceduto, no tu no. Ma perché? Non ci sto. Oh, una cosa che non ci sta. Ci vorrebbero dir che sarà una transizione serena, vengo anch'io. No tu no. Ci saranno per l'IT garanzie e tutele più nuove, per scoprire che va sempre a finire che piove, e l'ombrello ce lo vogliono sempre mettere là, vengo anch'io. No tu no. Sei ceduto. Non lo so. Sei ceduto. No, no, no. Ma perché? Non ci so. Si potrebbero chiudere gli sportelli e demansionare, attenzione anche chi ha gli sportelli. Si potrebbe chiudere gli sportelli e demansionare, sei ceduto. No tu no. E mandarti sempre più lontano a lavorare. Fan la casa BNL, ma tu non ci puoi stare. Solo il portinaio forse tu potrai far. Vengo anch'io. No tu no. Vengo anch'io. No tu no. Vengo anch'io. No tu no. Ma perché? No no. E perché no? Questa qui invece era perché non aveva. Ma se cambio di voce. No, ma perché è un'altra storia e non era su assento, non era tutto, capisci il senso. Cazzo, ma ragazzi, devo spiegarvi prima come è l'asilo. Allora, si vorrebbe dir che noi bancari dobbiamo sparire. Sei ceduto. No, no. Che il lavoro lo fa meglio gli schiavi e i robot, e il progresso non si ferma e qui non ci puoi stare. E adesso a 60 anni devi cambiare mestiere. Sei ceduto. No, tu no. Sei ceduto. Non lo so. Sei ceduto. Ma si può? Ma perché? Perché no? Perché boh. E questo è un boh, è una trappolina. Perché boh non è la perché no, perché boh, insomma. Il finale, ultima strofa. Ultima strofa. Ultima strofa, il finale. Ci vedremo tutti quanti in tribunale. Vengo anch'io. Sì, tu sì. Bravo, vedi. Testa e tavola. Per vedere se quel che ci avete fatto si può davvero fare, e sentire l'odore della vostra paura che sale su, e dopo tutti insieme a mandarvi via dal Q. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Sei ceduto, no tu no. Perché il giudice ha detto no! Un applauso, tornate a casa. È stato bello, ma adesso fiora di ballo. Questa è una canzone invece, ritornando più seri, che l'altra volta l'abbiamo scritta per l'Alessandro. E quindi ve la riproponiamo ancora, perché diciamo che la perdita dei nostri due amici, colleghi, compagni, Alessandro e Renzo, così ravvicinata, non è stata ancora digerita, anzi... Il ricordo è vivo. Ale. Vita scorre, corre, la vita va, il ritmo batte, sconti non ne fa. Di gente ne ha incontrata molta, di gente giusta poco e poco alla volta. Nessuno hai perduto, nessuno hai abbandonato. Sulla tua bici, sulla canna l'hai caricato, col passo da bassista l'hai recuperato. Sulla tua bici, sulla canna l'hai caricato, senza scatti, pedale sul pedale l'hai recuperato. vita scorre e la vita va. Riflettevi ieri sulla riva del fiume e sei già arrivato qua. Che non serve gridare a squarciagola, che di ragione non ce n'è mai una sola. Cambiano le cose, ma poi in fondo, quello che si muove nella vita gira solo in tondo. Cambiano le cose, ma il pallone è sempre rotondo e Rivera giocherebbe ancora in ogni squadra del mondo. Sono qui, come vedi, anche se di gente finta ce n'è in giro tanta, cosa credi? Ho lottato tanto tanto e ad ogni costo, il tuo stile è questo, lo riconosco. Il rispetto degli altri per te è al primo posto. E non serve respingere, prego, c'è ancora posto. Il rispetto degli altri è ad ogni costo. E non serve correre, c'è ancora posto. Fiacchi però, e devo dire che se l'avete vedo un po'. Fate un applauso, fatto bene a Paolo Zagari alla chitarra, a Gianni Rota al flauto, al sassofono Marcello Turcato, al contrabbasso Davide Burati. Questo pezzo è un pezzo che indaga un po' nelle nostre menti ed è un pezzo che anni fa Paolo scrisse proprio a seguito dei suoi primi anni di lavoro in banca, che gli hanno aperto la mente, sempre con l'aiuto anche di qualche fungo allucinogeno. Però quello serve, anche quello, e quindi vai. Il giardino. Stato, lasciati andare, è come un grande mare, sole di notte, ho le ossa rotte, un gabbiano vola piano, vola lento, va lontano, penso un olio. Il mare sullo scoglio, un uomo solo col suo cordoglio. Via, via, via ponente nella corrente. Via, via, via. forte, forte, forte, forte, forte, forte. Forte, forte, forte, forte, forte, forte. Oh, via, via, via nel tempo come in un lampo. Via, via, via nel tempo come in un lampo. Forte, forte, forte, forte, forte, forte. Forte, forte, forte, forte, forte, forte. Lacerato, un pianto gridato, un vento di fuoco, è già finito il gioco, poi, poi il ghiaccio, il gelo, c'è mancato un pelo, fiori secchi dentro la bottiglia, tutto il corpo si assottiglia, è un poco loco, svanisce poco a poco, è un poco loco, svanisce poco a poco. È una cosa divertente, c'è di tutto e non c'è niente. È una cosa divertente, c'è un po' di tutto, c'è poco, c'è niente. È una cosa divertente, c'è di tutto e non c'è niente. È una cosa divertente, è il giardino della mente. È una cosa divertente, è il giardino della mente. Il giardino della mente, mente, mente, il giardino della mente. E c'è un po' di tutto, e c'è un po' di tutto, e c'è un po' di tutto, c'è poco, c'è niente. C'è un po' di tutto, c'è poco, c'è niente. È il giardino, è il giardino. E c'è un po' di tutto, c'è poco e niente. È il giardino, è il giardino, il giardino della mente. Il giardino della mente, il giardino della mente. Paolo Zagari. Adesso c'è un momento particolare, perché sarebbe dovuto intervenire e ce l'aveva chiesto e tutti gli amici qua del Cox lo sanno quanto ci avrebbe tenuto a venire a intervenire Betty Gilmore, che invece oggi pomeriggio è stata ricoverata in ospedale abbastanza d'urgenza, per cui verrà la prossima settimana. Insomma, vediamo. Ci ha tenuto comunque a salutarci mandandoci una poesia e poi dopo un saluto. Ufficio. Non ci sono finestre dove lei lavora, né sole, né cielo né nuvole per nutrire la fantasia, soltanto una pianta solitaria imprigionata in un vaso sopra l'armadio di acciaio, una scrivania sotto il calendario con le feste comandate che segnalano l'orario interminabile, le giornate di qualcuno che lei non conosce, degli orologi col tic-tac al ritmo delle ore di qualcuno che lei non conosce. E quando finalmente la lasciano andare via, è troppo tardi, le stagioni sono già passate, è troppo buio per vedere, troppo tardi per ricordare. There are no windows where she works, no sun, no sky, no clouds to feed the imagination, only lonely indoor plants imprisoned in pots on top of steel cabinets, desks under calendars and fixed holidays marking the endless schedule of someone else's days, clocks ticking to the rhythm of someone else's hours. And by the time she is allowed to leave, it is too late. Seasons have passed. It is too dark to see. Too late to remember. Un caro, caro saluto a voi che mi avete dato tanto ispirazione, conoscenza e sostegno in quella di questa città. Grazie, grazie, Cox 18, Conchetta e Calusca. Vi ammiro, vi rispetto e vi amo. Betty Gilmore. Un augurio alla Betty! Un augurio alla Betty che possa andare tutto bene. Dovevamo fare diversi blues con lei, non li faremo se non un paio proprio dedicati. Questo è un blues che Gianni faceva insieme a lei, quindi a due voci. Lo farà da solo. Kitty's gone. Gone away. It is gone, baby. It is gone. It is gone away. You don't want to be well. And we miss story. So then. It is gone. For me, it is gone, baby. It is gone. It got me there. I don't wanna be what's under love. I wanna win. for good. Oh, then he's gone, baby. He's gone away. By the road. Something away, man. Jack Diamond. No, baby. Oh, then it's gone, baby. I'm really well. I've been on the bird. Hope I can do with what you were. Adesso abbiamo alcuni interventi che sono in ricordo di Renzo. E il primo chiamerei Alberto, per esempio. Alberto, che aveva da raccontare qualche aneddoto, perché in effetti su di lui ci sono tante cose che si potrebbero dire, ma naturalmente in questi momenti è anche così abbastanza difficile tirarli fuori, per cui facciamo un applauso ad Alberto, che comunque... No, io vado a braccio, non avevo preparato niente, però due cose devo dirle, perché Renzo e tutti gli altri del sindacato sono persone con cui ho diviso veramente una fetta di vita e un percorso sindacale lunghissimo. Non c'è voce? Ah. No, voglio solo dire appunto che Renzo per me è stata una persona ingambissima, una persona onesta innanzitutto. Io sono entrato nel sindacato quando li ho conosciuti, mi è bastato un'assemblea in cui sono venuti Josef, Piero, Renzo e Alessandro e ho capito che quella era la mia famiglia. Renzo era uno di loro, Renzo era una persona che anche dopo pochi minuti e ti rendevi conto che ti potevi fidare, ecco, era una persona che sapevi già da distinto e di pelle che nel bisogno lui ci sarebbe stato. Questo ti dava proprio l'idea, era un guerriero, era quello che diceva, perché quello che diceva era sempre molto trasparente, non aveva retropensieri e quindi insomma è stata una persona che mi manca molto. Persone come lui oggi mancano tantissimo. Poi era una persona che non stava negli schemi, e questo lo sappiamo benissimo. Quando gli si dava uno schema, era un pochettino, no? Andava un po' in tilt. Io mi ricordo due episodi, vado velocissimo. Uno riguardava Villani, che aveva preparato, no? Mi ricordo, per un'assemblea, un poster enorme, no? Con tutta una serie di cose, di argomenti da dire prima di arrivare al punto dell'assemblea, no? Quindi aveva creato questo imbuto enorme, no, di argomenti, e dovevamo andare in giro con questo poster, e mi ricordo che eravamo all'agenzia 12 in Filzi, che lui tirò fuori questo robo qua, è iniziato il primo argomento e poi il secondo e il terzo, E poi ha detto: ma vada a fanculo, quello lì basta, non ne posso più, di sto imbuto. E l'ha preso a calci in mezzo all'assemblea. È stata bellissima, una scena bellissima. Così come un'altra cosa che mi ricordo sempre ridendo, perché è che avevamo fatto dei giri nelle agenzie per riscontrare le problematiche in materia di salute e sicurezza, no? Avevo predisposto io una scheda con tutte delle frasi, no? Tipo non funziona il rubinetto, non è carico l'estintore, non c'è la serratura che funziona, tutte un po' al negativo, perché mi ero fatto un po' l'idea che poi dopo con i sì e no potevo poi sistemare i dati, no? E lui quando è arrivato nella prima agenzia si è trovata questa domanda, no? Non funziona la serratura, ma io cosa devo rispondere, sì o no? Perché non funziona e no, però devo mettere sì. E allora è andato in casino, insomma, ogni volta che mi vedeva me la menava con questa roba qua. Quindi basta, no? Volevo dire solo questo, che con Renzo ci siamo anche tanto divertiti, mi manca tantissimo. E ripeto quello che ho detto all'inizio, era una persona onesta, e anche quelli che i suoi scritti, a cui stava molto vicino, si fidavano di lui proprio perché dava quel senso di vicinanza gratuita, schiettezza. Grazie. Gli interventi si susseguiranno da qui in avanti. E questa qui è una canzone, no, non scappare perché è la tua, vieni qua. È una canzone che abbiamo scritto ed è proprio il senso anche di quello che ha sempre fatto Renzo. Questa canzone è una canzone dedicata a un uccello della Valle del Ticino, il Tarabuso, che è un uccello che ha la fama di essere uno di quelli che non gli importa degli altri, crede di non essere visto e si mette con il becco all'insù e sta fermo anche in mezzo a una radura. Una natura completamente priva di alberi. E naturalmente preda del falco, delle poiane, la prima preda. Ma noi, traslando il Tarabuso nella vita normale di tutti i giorni, il Tarabuso è quello che non gliene frega degli altri, che vive una vita alla finestra, e quello che vede fuori gli altri non gli importa e basta. Esattamente il contrario del Renzo, no Arlette? Perché lei riuscì. Cioè lui gli suonava le campane vicino, si faceva la battaglia per tutto il paese, lo ricordava, ha fatto la battaglia del prete. Ormai nessuno fa più le battaglie ai preti, ecco, non so, non siamo più ai tempi di Don Camillo dei Preti. Ma lui, perché gli rompeva le balle le campane, ha messo in piedi un casino, è finito anche sulla provincia pavese. Ed era quello il suo bello. Noi abbiamo dedicato a chi non è un Tarabuso, naturalmente, la canzone del Tarabuso. Per cui sta a voi pensare di collocarvi o da una parte o dall'altra. Io lascio libero, se siete dei Tarabusi, fate pure i Tarabusi. Prego, faccia come crede. Ok, faccia pure come crede. No, va bene. Vai. 1, 2, 3, 4. Non è solo a Ticino che incontri il Tarabuso, uccello non furbissimo, persino poco in giù. Il becco verso il cielo, il collo lungo e teso, sempre fedele al motto, posso rimanere offeso. Il Tarabuso è quelli che tanto a me non tocca, chi sta preoccuparsi è soltanto una sciocca. È uno che non prende mai nessuna decisione, si nasconde, finge, mima il pavido fifone insieme. Tarabuso blu, e Tarabuso blu, e Tarabuso blu, Tarabuso blu, Tarabuso blu, Tarabuso blu. Vai, corsa, vai! Tarabusi sai, ho incontrato quantità, al lavoro, al bar, al cinema, un po' in tutte le città. Non solo tra i volatili ma anche tra i primati, sono molti questi stolti anche se non sono piumati. Li scorgi da lontano, quei bipedi venuti che pensano sempre di non venirli conosciuti. Eppure stanno là soli in mezzo alla radura, il mondo che li guarda e non ha neanche paura. Tarabuso Blues, e tarabuzo bu, e tarabuzo bu, tarabuzo bu, tarabu. Anche se me. A quattro mani, anche a sei, perché con Cesare Castione. Bene. Ciao. Un saluto a Roby che va. Chiamerei su una persona a caso, Arlette. Arlette, vuoi sempre che ti teniamo. Aspetta. Dai così, quindi lo prendo anche come una cosa positiva, perché l'Arlette mi ha detto. Devo leggere una cosa, ma ho paura. Allora, se là, parla. Là in fondo. Poco casino. Se no, vi faccio. Se no, Tito, dai un brutto voto. Dai qualche voto. No, allora, l'Arlette ha detto: intanto, l'Arlette è la prima volta che vai in un centro sociale. Come ti trovi in questo centro sociale? Bene. E allora ha detto, ma io non so se avrò poi il coraggio, se riesco a non piangere. E allora magari mi metto in penombra, invece hai già pianto prima, quindi sei già a posto. Allora direi, se riusciamo a stare in silenzio, teniamo sotto un sottofondo che il Paolo ha preparato apposta, uno strumentale, per cui... Ma l'ha preparato apposta, anche loro, non devi dirlo, cazzo, anche te. Che bello. Bellissimo. Allora, io vi vorrei raccontare Renzo a casa. L'avete conosciuto in ufficio, nelle manifestazioni, e non vedo un cacchio con gli occhiali, ecco. Quindi io ve lo vorrei un po' raccontare com'era a casa. Non era molto diverso, però ve lo racconto un po'. Il telefono si è spento, quindi non... Scusate. Allora, intanto vi racconto come ci siamo incontrati. Era il 1985 di agosto, una notte in un villaggio di chiacchiere in riva a una piscina di un villaggio turistico. Poi neanche 20 giorni dopo già vivevamo insieme, nella stessa casa. Follia? Un po'. Ma per stare con Renzo non si poteva seguire parametri comuni, perché non era una persona comune. E se si arrabbiava stava dicendo che ci teneva. Se stava in silenzio voleva dire che andava tutto bene. E se stava dicendo, se io stavo dicendo una sciocchezza, me la lasciava dire tutta. Mi ascoltava con le braccia conserte e mi fissava. E poi iniziava, ascolta me. E ti smontava tutto, pezzo per pezzo. Amava le sfide e provava e riprovava fino a riuscire. Così aveva imparato a assemblare i PC e a farli funzionare. E aveva coraggio, il coraggio di saltare col paracadute, di immergersi a Lamu, un'isola del Kenya, con le cernie giganti e gli squali macò, di iniziare battaglie anche da solo, le campane. Se c'era un problema andava risolto, anche se non riguardava lui stesso, la sua famiglia, ma altre persone, amici o colleghi. E non sempre la vita fu generosa nel ricompensare questo suo altruismo. Qualche volta non fu neppure capito. Non so se era forte o se era stata la vita prima dei 30 anni a farlo diventare così determinato, così guerriero, ma una cosa era certa. A me ha insegnato a non mollare mai, fino all'obiettivo, costi quel che costi, se è per una cosa giusta. Mi ha insegnato che a volte bisogna aspettare il momento giusto. Diceva sempre, non bisogna correre, ma arrivare in tempo. E capiva le persone, dopo averci parlato 5 minuti soltanto. Capiva i falsi sorrisi, le bugie, gli ipocriti, i ruffiani. Questi ultimi proprio poi non li sopportava per niente, perché lui quello che pensava diceva, nel bene e nel male, perché incarnava quello che si chiama il coraggio delle idee. Anche in un mondo dove seguire l'onda paga di più, perché gli ideali non si tradiscono mai. E abbiamo fatto tanti viaggi insieme in tutto il mondo per tanti anni, in sintonia, come una squadra. Ci capivamo con uno sguardo e se le cose si mettevano male, ci è capitato in Kenya, non serviva parlare, non so, ci si capiva perfettamente. Ci è successo appunto in Africa Nera, nel Chiapas, nel Messico, in Sri Lanka, in Giordania. Abbiamo preso aerei che perdevano i bulloni, Proud of Africa, Kenya Airways. Dormito nella savana in tende in due, senza nessun tour operator. Abbiamo evitato le rivolte di Los Angeles quando incendiavano le macchine e abbiamo dormito nel quartiere nero di Key West. La storia è lunghissima, forse ci vorrebbe un libro per tutti gli aneddoti e sono i miei ricordi più belli, le grandi emozioni. Le sue passioni erano la subacquea, il computer, il sindacato, poi la musica e tanti film, quelli dei grandi attori. Prima della malattia, molti anni prima, le nostre strade si sono divise, perché siamo due teste di cavolo, lo aggiungo. E poi però hanno continuato a correre parallele, ci siamo sempre aiutati a vicenda e il nostro figlio, anche se part-time, è sempre stato il nostro progetto più importante di tutti. La malattia, una delle più insidiose, che strisciante, cancella i ricordi. All'inizio gli ha tolto la grinta del guerriero, ma non il sorriso che sfoderava con un abbraccio quando ci incontravamo. Poi ha preso tutto il resto, un po' alla volta, in 10 anni, fino a portarlo via 5 mesi fa. Non eravamo pronti, forse non lo si è mai. L'ultima volta che ci siamo visti, gli tenevo la mano mentre stavamo in giardino nell'RSA. Ascoltavamo i Pink Floyd e gli raccontavo che nostro figlio si sarebbe sposato a giorni. E lui mi prese la mano con entrambe le sue, come per dire missione compiuta. Non l'aveva mai fatto negli ultimi anni. Quello che non sapevo era che forse, ha anche pensato, adesso posso andare e sarà sempre con noi. Grazie Arlette, un applauso fortissimo. Grazie per il coraggio di averlo detto. Noi abbiamo scritto una canzone se fai un viaggio. Abbiamo scritto a volte, guarda Arlette, non so se tu ci credi, ma così è stato. Abbiamo tempo fa, e la malattia di Renzo era già avanti, io e Paolo abbiamo messo in piedi un pezzo dove c'era un testo che non sapevi come mai quel testo partiva, è come se fai un viaggio, poi man mano il testo si è dipanato e leggendolo fra le righe abbiamo pensato che quel testo lì, che poi l'abbiamo completato nei giorni purtroppo quando è mancato Renzo, che fosse dedicato a lui, a quella malattia maledetta che l'ha preso. Grazie Roby. E quindi ve lo proponiamo. Vedete voi come questo testo, cosa vi può sembrare. È come se fai un viaggio, attraversare questi luoghi, questa terra di vita, dividere, rivivere con chi l'hai conosciuta, la paura del buio e degli odori e non hai perduto nella selva nera, nera, e ritornare a casa con una provvista di immagini, di voci, di vite, umori e poi deliri che si sommano agli amori, alle ombre che ti accompagnano senza altri propositi se non dipanare l'insipida matassa del nostro tempo passato. E risalire da solo fino alla fonte come un ubriaco verso il monte, poter essere ancora noi stessi, ritrovare le parole, le voci più segrete dell'anima e chi le può capire da solo nella sconfinata nostra terra d'infanzia. È come se fai un viaggio per una strada già percorsa, eppure strana a noi, come la gente che insieme ha tessuto le fantasie e i sogni sconfinati di un bambino, dove l'acqua è acqua e ci parla e ci sussurra intimamente. Come se fai un viaggio, misteriosa avventura, a confondersi goccia in goccia nella pioggia, buio in fondo nella radura, attraversando la nuvola della memoria, bagliori di antica bellezza, sconfinata giovinezza. Grazie, il pubblico che è rimasto è poco ma attento, ma deve essere anche molto presente perché questo è il gran finale e siamo su questo pezzo che abbiamo aggiornato su una storia che è stata quella della cessione, è innestato su una bella ciao dei bancari che invece era nato in un vecchio contratto e davanti a un bel po' di persone in piazza della Scala. E quando è stato chiesto di poter cantare una canzone, cantare una bella ciao, eravamo anche abbastanza intimiditi, perché comunque, perché una bella ciao in mezzo a un pubblico, comunque a uno sciopero di bancari, tutto sommato bella ciao ha una sacralità che non può essere toccata. In realtà poi ripensando alla bella ciao delle Mondine, che è una canzone di lavoro, perché non farla in un ambito come il nostro? E lì non sapevo in quel momento che in effetti le cose sarebbero abbastanza abbastanza precipitate da dover far sembrare i bancari o comunque chi veniva ceduto nella stessa condizione delle mondine che dopo 10 ore di lavoro con i piedi immersi nell'acqua, insomma, avevano davanti un futuro non molto roseo. E questa è la nostra bella ciao dei bancari. Stamattina, appena alzati, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, questa mattina, appena alzati, da soli in casa ci tocca andare. I dirigenti e i derivati, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, tra i dirigenti e i derivati, un dur lavoro ci tocca. Il cliente è un arrembaggio, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, con il cliente è un arrembaggio, l'agenzia è una catena, sì, di montaggio. Mail arriva sul terminale, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, la mail arriva sul terminale con il badge. Agenzie, voi chiuderete, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, soldi, denaro, avete sete, niente vi importa della società. Questa mattina, oh bella ciao, oh bella ciao, questa mattina, appena alzati, ci han ceduti. E ci han ceduti, ci han ceduti, ceduti, ceduti, ceduti. E via, via ci tocca andare, e via ci tocca andare. Ma noi non siamo solo dei numeri. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ma noi non siamo solo dei numeri e dei costi da siamo quasi alla fine, ragazzi. Prima di due poesie che saranno sulla pace, abbiamo una canzone che è quella versione di in banca di No Woman No Cry e in banca No In Banca Don't Cry. Sempre se siete svegli, com'è che stiamo? Poi così no. E ne abbiamo due. Non è che ancora due, possiamo dire due. Ne abbiamo 200. Ma come Marco? Non è Marco. Dovete cantare da lì, non è che è Marco. Marco, Marco, dopo viene Marco, dopo viene. Vuoi venire adesso te? Allora, prima facciamo questa qua. Vieni allora, vieni qua che facciamo questa. Dai, na na na na. Vai, na na na. No, no, no, no, no, in banca don't cry, no, no, no, in banca non piangere dai, no, no, no, no, no, in banca don't cry, in banca non piangere dai. Ci dicono che siamo costi poco produttivi, troppo pagati, ma quel che guadagnano i banchieri non se lo sono mai guardati. Dicono che sono un bancario obsoleto e sono poco fungibile, ma ho solo una mano di 5 dita e solo il pollice opponibile. No, no, no, no. Soldi non te li danno, sono sempre più stetiche. Saremo anche inadeguati, ma quanti lavori nuovi non continuiamo a fare? E corsi di aggiornamento, infatti festa fanno cagare. No, no, no, no. Ti cedono, ti scattano, ti macinano come carne trita. Ti ha spiegato che sei una risorsa importante, e se farai famiglia, poi ti cedono un calcio in culo con la spedizione dei mille. No, no, no, no, in banca non play. No, no, no, in banca non piangere mai. No, no, no, no, no, in banca non play. In televisione ci ha detto lavorare in banca è come trovare una miniera, ma adesso tanti senza fastidio non si addormentano la sera. No, no, no, no, in banca non fai. No, no, no, in banca non piangere mai. No, no, no, no, no, in banca non fai. No, no, no. In banca non piangere mai. Allora, Marco Villani, Marco l'abbiamo tenuto per ultimo per fare una chiusura e qui poi però tutti vanno a dormire all'ora delle galline. Che ore sono adesso, scusami? È mezzanotte già? Ah, è per quello. Ah. Cazzo, dobbiamo mangiare di meno, suonare di più e poetare di più. Siamo a gran finale, dai. No, spiace fare Marco, che sono andati via un po' gli altri, ma chi cazzo c'è? No, no, non voglio dire. Allora, ti devo tenere il... Prima quando i due veloci di parole con... Aspetta che devo... Però tu lì... se tu gli davi la chiavetta con il pezzo, già. Non è le chiavette, va. Sono un dinosauro. Lo so. Allora Renzo, ci siamo conosciuti primi anni 90, alla 5, poi alla 21, come compagni di lavoro e subito anche di sindacato. È stato amore sindacale a prima vista. E abbiamo formato una bella coppia, anche perché noi all'epoca, non so se qualcuno della Biennale si ricorderà, era divisa Milano in 5 zone, noi eravamo Milano Sud-Est, avevamo un direttore, il direttore, che era un bello stronzone scolamiero, ed è arrivato un CSE, che è il capo operation, che è Amorosi, che era un altro bello stronzone. Quindi eravamo due nemici belli tosti, per cui c'era terreno. E io e Renzo abbiamo formato una coppia d'assalto e gli abbiamo fatto una guerra mostruosa e gli abbiamo portato in sciopero tutte le agenzie di Sud-Est con un'adesione all'85-86%, che per i bancari non è poi così scontata, sommergendo la filiale di Volantini con una continuità mostruosa, attaccando anche personalmente questo CSE che si credeva una sorta di ninja. E noi l'abbiamo chiamato, lei un Pikachu col disegno del cartone animato, e i commessi che erano nostri iscritti dicevano: è incazzato nero, ha detto che ci vuole far arrestare, ci vuole menare, insomma era impazzito. E questi volantini venivano prodotti la notte. Io andavo a trovarlo, facevo San Donato di Gonzone, lo dico perché così contestualizzo quello che andrò a leggere tra poco. Infilavo la macchina, partivo, andavo a trovarlo a Vigonzone. Allora di cena, quindi risotti, salamelle mantovane, essendo Renzo un ragazzo della Mantovano, e poi c'era, lui aveva un armadio con una sorta di finta anta, si entrava e c'era una sorta di piccolo spazio col computer, un posto segreto dove nascevano questi volantini strani. E quindi adesso vado a leggervi. Poi, come è stato già detto, Renzo amava, adorava i Pink Floyd, quindi adesso con un gioco di prestigio vediamo di mettere Wish You Were Here. Vediamo se riesco a... Allora. Faccio partire prima... I know you are here, so che sei qui. Fagioli con l'occhio bollono in pentola. Entro dopo un viaggio nel buio invernale, da San Donato a Vigonzone, una strada fatta con periodica abitudine, come una calamita di intesa e di affetto. Renzo mi aspetta e io arrivo diretto. Entro e un cane morto, come va? Mi avvolge e si comincia a ridere, ridiamo e parliamo di tutto. Mentre il profumo di salamella mantovana si infila tra risate e parole scambiate. Sei pronto per fare un volantino? Stasera li ammazziamo. Ho già in testa le frecciate. Intesa, comprensione. Io e Renzo talmente diversi da essere complementari. Quando ci parliamo tutto arriva puntuale. Mai provato con lui un senso di fatica nel comunicare. Serate da caos organizzato. Volantini a fulmicotone. Nati nello spazio dietro l'armadio. Come un nascondiglio di guerriglieri mimetizzato. Che vita, Renzo, e raccontavi il tuo essere stato paracadutista, subacqueo, fotografo del mondo, turista, meccanico, motociclista. Capivi, Renzo, mi leggevi dentro come un libro aperto, ti affascinava la mia follia sindacale militante, mi portavi ogni tanto a terra dai miei voli, guardandomi con le tue braccia conserte e il sorriso del fratello maggiore, oppure girando il tuo isotto, un'amichevole frecciata, mentre intorno ci accarezzava il suo profumo e il suo sapore. Ancora una serata, Renzo. Ancora la guerra sindacale, nata in una nostra nottata. Tu che hai perso i genitori troppo presto, sei stato un padre migliore di me. Mi inondavi coi progressi del tuo caro Dario. E io ti fissavo, affettuoso, uomo del mondo eppure cavaliere solitario. Abbiamo cercato di usare un po' le musiche che amava Renzo, no? Per cui anche nel filmato, eccetera. Adesso abbiamo il finale, che è dedicato, tra l'altro, una poesia. La poesia che aveva dedicato anche Betty Gilmore era dedicata anche al lavoro delle donne e alla giornata contro la violenza, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nel finale tutti hanno scelto un finale dedicato alla pace, perché evidentemente è una cosa che sta a tutti. Anche chi è venuto da lontano per questa serata, come Tito, ha una poesia. Vieni, Tito. una poesia, in questo caso addirittura in calabrese sulla pace. No? Non è una poesia. Una lingua misteriosa. Misteriosa. Allora, Tito è un grande movimentatore della poesia sociale, ma controcorrente, tutto, collettivo. Nasce anche un po' qui il collettivo La Mosca. Comunque era dentro qua quanti anni fa? Tantissimi. Parecchi, ma ci siamo ancora. Ti tengo il microfono. Comunque siamo sempre qua. A tutti, agli amici, ai compagni che ci sono, quelli che non ci sono, eccetera, a tutti quanti. Allora, due brevi poesie. Allora, la prima è questa. Quando pigli uno spicchio in astide e cucchiro ti menti a scrivere, vicino a tia s'assetto o sula. S'assetta vicino a tia e ti canta una canzone. Quando si capace o capisci i paroli che scrive a schiuma da Omara, Omara s'assetta vicino a tia e ti posa nelle mani una balena bianca. Quando ti s'appiccia in tuo cuore o coraggio combatti coi poveri, vicino a tia s'assetta a storia. S'assetta a storia e ti porta un pezzo di felicità. Un pezzo che si usparti ugualu, si moltiplica per 100 e può dare lo stesso peso da felicità che senti quando lighi morti e vivi con una corda sola. Allora, questa qui in origine era la madre del partigiano di Gianni Rodari. Invece in questo caso si trasforma in blues do partigiano. Su pan iva yanka yanka, c'è una macchia russa russa. E sta russo partigiano, che chiuriva la libertà. Quando usula scioglie la niva, e un russo vide spuntare, tu chi passi no tirara, e usciura da libertà. Su paniva yanka yanka c'è una macchia russa russa e sta russo partigiano che chiuriu pa libertà. Quando torna la primavera e no chiura vide spuntara, tu che passi no tirara e usciura da libertà. Grazie. Grazie a voi, grazie Piero. Grazie, grande Tito. Pensa che questa qui l'avevamo incastonata in una bella ciao. E quando Piero passa passa. Allora, la Betty ci teneva a chiudere con una sua poesia sulla pace, in realtà che parla della guerra. La ascoltiamo e poi andiamo nel finale e vi chiediamo di rimanere, perché il finale è una canzone che sapete anche voi e cantare la strofa non sarà difficile. Senza la guerra posso mangiare senza la guerra. Posso bere senza la guerra, posso amare senza la guerra. A cosa serve la guerra? Posso sentire senza la guerra, posso vedere senza la guerra, posso camminare senza la guerra. A cosa serve la guerra? Posso cantare senza la guerra, posso ridere senza la guerra. Posso ballare senza la guerra. A cosa serve la guerra? Posso piangere senza la guerra. Posso persino odiare senza la guerra. Posso morire senza la guerra. A cosa serve la guerra? Posso vivere senza la guerra. Posso cantare senza la guerra. Posso ridere senza la guerra. Posso ballare senza la guerra. A cosa serve la guerra? Posso piangere senza la guerra. Posso persino odiare senza la guerra. Posso morire senza la guerra. A cosa serve la guerra? Posso vivere senza la guerra? La Betty ha trasformato una poesia quasi in un gospel, quasi in una canzone. E noi ci rifacciamo un grande autore di canzoni per arrivare alla fine e vi chiediamo di rimanere e fare la strofa che conoscete sicuramente anche voi. Vai, vai. Of me, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark for me to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Questo distintivo di dosso non posso più usarlo, sta diventando buio, troppo buio per vedere. Mi sento come se stessi bussando alla porta del paradiso. Mamma, ho messo a terra le mie armi, non posso più sparare. Quella lunga nuvola nera sta venendo giù. Mi sento come se stessi bussando alla porta del paradiso. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. The long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Facciamo un gran finale insieme, dai! Knock, knock, knocking on heaven's door. No, no. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Gianni Rota alla chitarra, Paolo Zagari alla chitarra elettrica, Davide Murati al contrabbasso, Marcello Turcato al sax. Noi vi ringraziamo, ringraziamo tutti, l'Arlette innanzitutto, un applauso all'Arlette, al Marco Villani, all'Alberto che c'era prima, a Josef, a Tommaso, i due Tommasi, a tutti voi, a Tito Truglia e il grandissimo Nicola Stale. Knock, knock, knocking on heaven's door. grazie all'archivio Primo Moroni e al COT 18. Grazie a tutti, a Robertino. Soprattutto si è mangiato bene, il resto decidetelo voi. Grazie. Ciao.